Miei cari frequentatori del Castisar, il gruppo degli insultisti è qui per allietarvi. Applauso. Allora, dico subito che dei dieci nomi annunciati da Manifestino, tre sono assenti per motivi lavorativi. Non avremo qui stasera Dieter Graf, Stefano Ricci e Paperetta Yeye. Però ci sono gli altri sette. Peccato. Mi è piaciuto Paperetta Yeye. Vabbè, io sono Tecno Ciccio e procedo a leggere il manifesto del movimento. Aspettiamo che il buon Fotolowski trovi posto. Sì. Siamo tutti seduti. Manifesto del movimento. Il movimento poetico disgustista è tornato per mostrare e dimostrare ai bavosi critici passatisti e al colto pubblico frequentatore di noiose, tediose, merdose serate di lettura della cosiddetta poesia ufficiale che quello che ci viene spacciato come cultura è solo rifiuto organico che è venduto a caro prezzo. Noi disgustisti siamo, come è nostra usanza, generosi e munifici e offriamo a voi le nostre creazioni intestinali esponendole al vostro feticista morboso, ludico, lubrico sguardo assolutamente gratis. Noi disgustisti ci rifiutiamo di fare arte a tempo pieno perché ciò non è essere artista ma artigiano. Non abbiamo e non vogliamo avere uno stile in cui riconoscerci e non ci assoggettiamo al fascismo dei critici, personaggi miserevoli e falliti in grado di non saper recitare nemmeno la Vispa Teresa o di creare un posacenere con il DAF. E non vogliamo confonderci col comunismo intellettuale degli artisti della cultura ufficiale impegnati in azioni di buonismo per giuste cause nel mondo a favore di... A noi non ci frega un cazzo di niente e nessuno! Di che sta? Odiamo tutti, abbiamo disprezzo e disgusto per tutti e rivendichiamo la totale anarchia della nostra arte! L'arte e la poesia disgustista è inutile e malata, non classificabile e non vendibile. L'uso in gran quantità di materiali deteriorabili nella pittura e scultura disgustista e doppi sensi e non senso nella scrittura poetica, immagini statiche e noiose nelle produzioni videotelevisive e computer grafiche, rende l'arte disgustista una sofferenza per mostre, musei e collezionisti feticisti che non possono possederla e idioti che non possono comprenderla. Mentre noi artisti disgustisti possiamo possedere loro, ovviamente dietro congruo pagamento. In una frase possiamo racchiudere il nostro pensiero e il succo seminale della nostra arte. Noi disgustisti siamo cazzi per il culo! Ed ora uscite in piazza e contate i morti! Okay. Comincio io con qualche poesia. Una poesia per chi ama il cinema. Il cinema. Godzilla contro i tre moschettieri. Un attimo di pausa, no. Giustamente. Un applauso al Torrone! Arriva! Benvenuto al Torrone! Vai Tecno! Allora,

quarta generazione. Una quella poi. Una poesia dedicata a un amico presente, Fraioli. Ah, era morto. Fraioli non è morto. Lo dico io. Fraioli è vivo. Sembra, eh? Spettre a un gatto gay. Spettre a un gatto gay. È una cagna troppo sexy. E in un bunker post celere manda la sua mente in pezzi. Come un vulcaniano stitico ex marito di Godzilla prova a usare macchine asettiche per clonare Claudio Villa. Ma lo vedo più a suo agio a dipingere col ragù e in un'estasi lisergica a imitar Mr. Magoo. Il suo volto un po' alla Woodstock pare un'osi in questo strazio. Il suo encefalogramma va spedito nello spazio. Ma i suoi acerrimi nemici, al momento del decollo, lo farebbero schiantare da colui che ha i denti al collo! Perché invidia c'è a sto mondo per chi, ultra trentennale, sceglie come proprio regno una scuola elementare! Lascio per ora il posto, cioè, venga un altro! Un altro! Vabbè, ma anche mi sembra che abbia la porta. Culone. Signore e signori, ecco a voi Hermes! La tua quella con Fredino, sì, certo. È finito, è veramente disgusto. Un attimo di attenzione perché le mie poesie sono. Voce! Le mie poesie sono tutte così belle che ho l'imbarazzo della scelta, però comincerò con una scritta contro Tecnociccio, che è simile alla sua, ma si differenzia dal fatto che i suoi titoli erano tutti assolutamente veri. Questi sono tutti assolutamente falsi. Si intitola Tecnociccio contro i pirati improbabili. Tecnociccio contro il vituperatore automatico, il mistero delle righe a quadretti, il cercopiteco invisibile contro il bisonte trasparente, Tecnociccio contro i tafferugli acrobatici, il mistero del cognato artefatto, il triangolo dai cinque lati di fuoco, Tecnociccio contro il pigiama inventato, il mistero dei misteri risolti, la casa delle Bertucce inverosimili, il mistero del mostro stupendo, Tecnociccio contro il mugnaio imbestialito. Esiste. Dove stavo? Il peperone che pizzica contro la cipolla che mozzica. Tecnociccio colpisce ancora. Ancora colpisce Tecnociccio. L'affannosa odissea del salvadanaio puzzolente. Il ritorno dei conigli apparenti. Gli orrori del pescivendolo che si credeva morto ma aveva solo mal d'orecchi. Le ultime grida del capitano muto. Tecnociccio contro il mancino con due mani destre. Canta la regina dell'impero muto. La vendetta dei chilometri cortissimi. La minaccia del marasma ordinato. E Tecnociccio contro gli invasori spaziati. Grazie. Allora. Che cazzo mi ha fatto? Mi ha faccia a strillare di più, ragazzi. Allora, adesso prima che vi ammorbo con quelle sull'amore ve ne darò una. Aspetta, ecco qua. Ve ne dirò una scritta contro un posto che a me sta particolarmente sul cavolo, non un posto in particolare ma un tipo di posto, no per carità. Si intitola Nella vita tutti facciamo degli errori. Nella vita tutti facciamo degli errori e non solo di ortografia. A volte ci si sposa, o si sbaglia strada, o si mette un abito bruttino, o si spara alla suocera mancandola. Ma quasi tutti, una volta nella vita, siamo stati al piano bar. È brutto il piano bar. Divani vecchi mascherati dalla luce fioca, camerieri professionaletti, clienti che stanno lì perché al piano bar non c'è chiasso e fa fico portarci la donna. È brutto il piano bar. È brutto. La tastiera suona da sola mentre un tristo menestrello erutta le strazianti melodie di Billy Joel o Venditti o a richiesta, con gli occhi semichiusi e la faccia di chi non vuole farsi accorgere che ha un dito nel culo. È brutto il piano bar, con le sue consumazioni piccole piccole e il conto grande grande, perché così fa ancora più fico. Se fossi musulmano, taglierei mani e piedi al pianista di piano bar. Se fossi buddista e grasso, mi siederei sulla tastiera del piano bar. Se fossi Charles Manson, ordinerei una strage nel piano bar. se fossi un pianista di piano bar, sparerei sul pianista. Grazie. Allora, da puzza al culo. Come lo sai? L'avevo detto di non dirlo in giro. Che lo picchia? Ma a Roma vuol dire sei bravo. Allora, questa l'ho scritta. Sì, l'ho scritta stasera prima di venire qua. Non ho fatto un tempo a battere la macchina, quindi non leggo un cazzo. Comunque, il suicidio del Gaetano inventato. State attenti perché è tristissima. Perché il 23 passa solo se c'hai bucio di culo? Perché coi buoni pasto non posso fare un buon pasto? Perché da piccolo hai 3 mesi di vita e non lo sai, e da vecchio hai 3 mesi di vita e non puoi farci nulla? Perché se... Mi fa parlare. Chi è? Ricomincio poi, Vado avanti. Perché se sei scapolo non puoi farti una scapola senza rimanere gobbo? Perché se i gemelli sono nell'acquario non hai i polsini bagnati? Perché per avere una vita interessante devi essere per forza incinta? Perché se disegni un triangolo a scuola fai una figura, e se ti beccano a farlo coi tuoi cugini fai una figuraccia? Quanti dubbi, ma ora basta, punto, punto a croce, punto a capo, punto tutto, punto da un ragno, punto di morte. Io, che ho sempre creduto di potermi chiamare Gaetano, solo ora scopro di non esistere. È tristissimo. È molto triste. Qua posso andare avanti all'infinito. Vai Gaetano, vai Gaetano. Gaetano, senti in tutti noi. Questa invece è dedicata a un altro posto, si intitola Luogo Ideale, però non è neanche questo il capitato. Ma poi la facciamo, caro animale. Non stai là forte, da te scelendo. Emorroidi. Luogo Ideale. Mi accuccio cippo cippo fra le natiche tue, come un gattino nella cesta. Oh, che comodità, proprio il luogo accogliente qui, nel crocevia perfetto di cosce, natiche, vagina, nella confluenza morbida di effluvi e umori. Temperatura, ok. Grado di umidità, ok. Decibel, pochissimi, tutto ovattato. L'ambiente ideale per passarci la vita. Non mi disturbate, non mi distogliete. Un'unica accortezza, avvisami se devi fare la cacca. Va bene. Il gatto. Allora, finisco questo ciclo. C'hai il ciclo? C'ho il ciclo? Sì. Si vede? Sono un po' nervosa. Il problema più grave è impedire che il gatto lo lecchi. È un po' criptica, però è dedicata a quei momenti in cui nella vita uno esagera, e allora magari una sera beve un po' troppo, poi durante la notte ne paga le conseguenze. Avendo io a casa dei gatti, anche i gatti ne pagano le conseguenze. Un lungo brivido gelido, come tutti i tamburi dell'Africa che si siano radunati nel centro esatto del mio cranio. Formicolio ai piedi, spasmi al ventre, ci siamo. Sale la marea montante, l'onda anomala liberatoria. Ecco che i tamburi aumentano il ritmo, gli spasmi si fanno convulsioni, il sudoretto freddo ha ormai preso il posto del pigiama. Cerco la forza di rifugiarmi in bagno. Nulla da fare. Il pavimento è condannato all'ennesima onta. Un ultimo disperato gesto. Scanso le innocenti riviste, il comodino, le ignare ciabatte. Una sola, l'altra purtroppo rimane troppo vicina, ahimè, purtroppo. E sale la marea montante, l'onda anomala liberatoria. Giuro a me stesso che questa sarà l'ultima volta, sì, forse la 107esima ultima volta. Non berrò mai più nemmeno un chinotto, lo giuro, ecco, sì, ci siamo, aia. Bleurp. Si riversa la putrida poltiglia sul placido suolo e sulla ciabatta rimasta, ahimè, troppo vicina. I tamburi cessano il battito, il ventre si rilassa, tutto sembra rinascere. Ora il problema più grave è impedire che il gatto lo lecchi. Per il resto, fanculo le promesse, domani si può ricominciare. Peace. Bravissimo, Claudio. Bravo. Signori, adesso ecco a voi l'ideologo del gruppo. Buonasera. L'ideologo. Grande Claudio. Allora, grazie. No, non lo voglio. Dopo. In arte sono mito elvo, ho detto anche il vomito perché le mie poesie poi le capirete. Vorrei dedicare la serata a due persone, uno al grande Paolo Fragliese, non per quello che ha fatto come giornalista, perché era sposato con Marina Lode, grande zoccola che tutti avete visto nei film Marina Lode e la bestia, Marina il trans e lo stallone, due capolavori del cinema che... No, però era lì, io parlo. Allora... Diciamo che l'inizio, tutto è iniziato quando un nostro amico, il quale adesso è morto, che è Marcello, no, non è Marcello, adesso è morto, fa l'attore e quindi fa delle cose ignobili, fa per esempio, ti fanno recitare il carabiniere quando lui è stato denunciato e arrestato ai carabinieri, però questa è un'altra cosa. E vorrei leggere una sua poesia, il grande Ricky Memphis, colui che ha iniziato tutto, si intitola Tazza uguale prova d'uguaglianza. Il papa, è re, ma quando caga puzza come me. Se c'ha i sordi fai il delicato e bevi il drink col mignolo alzato. Farai più bella figura di me, ma sulla tazza del cesso te voglio vedere. Può essere puro il più chic di tutti, ma le mani al culo però te le metti. Ci avrai la carta igienica un po' più delicata, ma de merda non c'hai quella più profumata. A sto mondo nessuno è davvero un signore. Chi c'ha i sordi non è superiore. Su sto discorso non c'è po' piove, perché la tazza del cesso è la prova del 9. Questo era il grande Ricky Memphis, no, quello che vedete in televisione e al cinema, era questo qua. Ricky. Era un genio, era! Era, adesso è morto, non è più lui. Montemario, eh? Esatto, bravo. Lo so, ma non è colpa nostra, è il manicomio. Per manicomio, l'ombra del manicomio ci ha fatto così. La mia maestra, in cima alla collina, totalmente coperto di sangue, ho sparato alla mia maestra un proiettile calibro 45. Con un proiettile calibro 45 le ho fatto saltare le cervella. Poi mi hanno internato per la mia follia criminale. Mi dicevano di piantar fiori sulla tomba della vecchia zitella. Mi dicevano di piantar fiori sulla tomba della vecchia zitella. Io invece ci ho tirato una granata. Allora, si vede ancora. Questo è il mito. Ognuno ha un suo mito, io il mio adesso lo leggo, può fare come cazzo vi pare. Tutti portano nel cuore il proprio eroe. Tutti hanno un mito da imitare. Fino a lui deve essere chiamato. In questa epoca di scarsi valori è bello che c'è ancora gente che abbia eroi e miti da cui apprendere insegnamenti di vita e seguire le orme della saggezza e spiritualità interiore. Ma una luce qui, niente, Padre Pio, Gandhi, Che Guevara, Osho, San Francesco, Buddha, Giovanni Paolo II, Dio, Geo, Allah, la NATO per la pace nel mondo. Anch'io ho un mito di un eroe. Che edizioni? Non fa niente, tanto ormai. Ormai hai detto. Ormai ho detto. Io sono matto. Un angelo con la spada di fuoco sceso in terra a donare felicità, e io vorrei essere come lui, e anch'io vorrei andare in giro con la spada di fuoco e donare felicità all'umanità. Io vorrei essere Rocco Siffredi. Vorrei avere un cazzo lungo 2 metri, essere come lui, un grande intellettuale pieno di luce e santità spirituale, e girare un film d'amore dal titolo La porna ammucchiata dall'allegro convento delle suore di clausura che gli brucia i frati del Fottemo Bene Fratelli, con le giovani collegiali pomponne, i ragazzi d'indonne, gli insegnanti arapati alla riunione del sesso condominio, con le maiale massaie e porno casalingue, dalla lingerie di Pizzo Sadomaso, fetish, gay, lesbo, fist, fuck, estreme, rabbit, with boys, girl, ed animals, blowjob, golden shower, caviar, hit, shit, latte, domino, fit, sweetie, fit, stinky, bad smell finger, your mouth up, your dirty ass, anal, deep anal, estreme, deep intruder, adal, spanky, hot water, pussy and dick, gang bang, old and mature woman, fucking balsam, young dark, Romina Power, Fabrizio Frizzi, perverso, mother body, and dressed body, toys, with a plus pie, cards, anti-food, transette, trasporto e transrano, on the drum, baci, grezza, abbracci, amore, senso biblico, buona porno, visione a tutti. così si interpreta. Spruzza così. Allora, siccome sono parecchie ragazze qui, non è contro le ragazze, ho cercato di pensare come un maniaco sessuale, non è che mi è stato difficile, però volevo vedere come... E ho scritto questo, considerazione filosofica di uno stupratore, vedi come la pensa. Poi, oh, se va a prendere a male, vabbè. La porta è chiusa, vorrei pure picchiarsi, io dopo. La bianca si violenta con il cazzo lungo e duro, la gialla si violenta con il cazzo grosso e tosto, la negra si violenta con il cazzo violento. Che ve leggo? È Papa! Subito quella del Papa! Vabbè, leggo pure questa prima, va! A Silvio, una poesia non è mia, è dei Leopardi. Silvio, rimembri ancora che dannaffanculo è giunta l'ora? Te lo voglio dire perché sono troppo incazzato. Mortacci tua e di chi t'ha votato. È finita. Una poesia, diciamo così, dedicata a un ex. Ti ho lasciato. Me ne va, non è vero. Ti ho lasciato, brutta stronza. Ti ho lasciato all'isola di Ponza. Ti ho lasciato sul dorso di un mulo. Ti ho lasciato. Chiedela under culo. Grazie. Adesso quella del Papa. Vabbè, facciamo quella del Papa, va? Oh, dai, il Papa! Cioè, non è quella del Papa, insomma. Che campi a fa? Ha un personaggio, diciamo... un personaggio, sente? No! Personaggio pubblico, diciamo, che c'è sta un po' sul cazzo. Poi come si chiama, si chiama. Che campi a fa? Che campi a fa? Non l'ho ancora capito. Non sei più una leggenda e nemmeno un mito. Sei solo un bastardo vestito di bianco che qualcuno un po' orbo ha cambiato per santo. Alla povera gente tu ti rivolgi con le tue encicliche piene d'imbrogli, racconti stronzate e poi parli di fede a qualche coglione che ancora ci crede. Ma tu sai che in Italia i coglioni sono tanti ed è grazie a loro se riesci ad andare avanti, sta massa dei vecchi rincoglioniti che però fanno comodo a molti partiti. E intanto il polacco dal Vaticano parla alle folle col microfono in mano, ma sarebbe più utile, ne ho la certezza, se andasse agli incroci alla vai per abbrezza. E invece continua a sparare ste cazzate sulla morale e le coppie sposate e condanna il piacere, il profilattico, il sesso, ma io non ce casco, mica son fesso, io me lo metto il preservativo ed è grazie a lui se ancora son vivo e non grazie a te, che per essere coerente lo prendi al culo e non usi niente. Così predichi meglio durante le messe e nascondi a tutti che c'è l'AIDS. E non di che sono state le trasfusioni, ti piace troppo annacco i procioni. Lo sanno tutti che c'è un orifizio che è peggio del pozzo di San Patrizio. Sei gran buffone vestito a festa e spero che qualcuno te rompa la testa. E ci hanno provato a farte fuori, ma tu sei decoscio, col cazzo che mori. Così per finire te lo dico de core, ma vaffanculo e ti piazza in tumore. Grandi proprio. Su Natale e me ne vado. Anzi, però prima leggo questa qui che diciamo dedicata diciamo all'atteggiamento femminile, però non tutte le donne, insomma le donne a noi ci piacciono molto, però diciamo delle volte vogliono risolvere i loro problemi pensando che il maschio, diciamo, le possa risolvere tutto, ma noi possiamo risolvere solo un problema, diciamo. Quindi si intitola Io non sono il principe azzurro. Io non sono il principe azzurro, ma un simpatico buzzurro. Io non sono il principe azzurro, molto spesso c'ho il cimurro. Io non sono il principe azzurro, non ammicco e non sussurro. Io non sono il principe azzurro, ma se vuoi il culo del burro. Scusa le ragazze. Fine. Andrea! Che bellissimo essere qui, ragazzi, è l'unico posto al chiuso dove ancora si fanno gli spettacoli, quindi è fantastico, è bellissimo. Ma non c'è tutta qua, ma c'è la condizionale. No, ho potuto un po', è bello. Questa poesia, diciamo, ma perché cioè, sono un cantautore, però mi leggo delle poesie, un giovane cantautore. L'ho scritta, diciamo, la vigilia di Natale perché ero un po' in crisi, me lo devo al culo. Si intitola 25 dicembre. Oggi è Natale, è nato Gesù, ma io a ste stronzate non ci credo più. Mi sono stancato di sta stupida usanza di fargli i regali e abbottasse la panza. Ormai mi deprime sto sotto Natale, c'è solo ci penso mi sento male. Mi tocca magnare quei bastardi parenti che prenderei tutti a calci nei denti. Io meno li vedo e meglio mi sento, morissero tutti sarei più contento. Invece ogni anno ste facce da cazzo, mio nonno che ride io che me incazzo. Sia che urla contro mia nonna che faccia una strage, porca madosca. Il prossimo anno se mi invitano a cena, te giuro su Dio che cambia la scena. Sceglierò per regalo una bella pistola, se stende nei tre con una botta sola. Mi nonna la fuoco, mi nonno li ficco, mi zia la sbatto contro al soffitto. All'altro mi nonno che sta sul girello, gli ficco nel culo il cosciotto d'agnello. E per finire dopo il cenone, mi suicido col panettone. Così stantranno lo vedrai sul giornale, come ho festeggiato il Santo Natale. Scusa, ma qua che serve il gemellaggio? Abbiamo dato il socio del figlio legittimo confido, il figlio del pre-evangelista a Cattivero. Baciate. Un abbraccio. Fotolotsky. In arte mi chiamo Fotolotsky, al contrario potete capire che significa. Eugenio. Allora io ho scritto tante di cazzate, stasera ne leggerò un po' su una parte. Perché... Tutte! No, io ve le leggo tutto, adesso sono un megalome. Allora questa si titola Ho comprato una TV rotta. Ho comprato una TV rotta per non vedere le cazzate che fanno la sera su tutti i canali. Ho comprato una TV rotta perché non avevo i soldi per comprarla sana, porca puttana. Finita. Era breve. Questa è una vecchia che il cavallo di battaglia proprio. Motiva solo. Cavallo di troia. Era un periodo che ero incazzato proprio, non sopporto i vecchi che sputano per terra, non sopporto serbi e croati che fanno la guerra, non sopporto chi va nudo in metropolitana, non sopporto la buccia della melanzana, non sopporto chi ha il cervello nel culo, non sopporto il contadino che si tromba il mulo, non sopporto Giura Scatella e il bisteccone, non sopporto Biscardi e il moviolone. Non sopporto chi si brucia come i bonzi. Non sopporto i leghisti perché sono tutti... Tronci! Non sopporto Mario Mero e la sceneggiata. Non sopporto chi non mangia marmellata. Non sopporto la coda all'ufficio postale. Non sopporto il pesce andato a male. Insomma, non sopporto. Sto stazione. Grazie. Avete capito, grazie. È bello. Esci! C'è di peggio. Dentro di noi. Allora adesso ne volevo leggere una d'amore, siccome ci sono molte ragazze, è una poesia dedicata all'universo femminile, a tutte le donne. Va bene, colgo l'occasione. Questa è dedicata a tutte, a qualsiasi ragazza. In particolare, per convenzione, la dedicheremo ad una ragazza che si chiama Ugo Arcibalda. Ma chi è? Ti adoro, anche se emani più cattivo odore di una puzzola. Sei fantastica con quei tre occhi azzurri. Hai un alito così forte che ti usano i serbi come contraerea. Non importa se hai la testa troppo grande rispetto al corpo. I tuoi cappelli li capovolgo e li vendo come piscine. Qualche malelingua dice che sei meno fine di un ergastolano. Normalmente in mezzo alle tue dita dei piedi ci fanno i nidi le blatte. I tuoi capelli sono così belli che li usa l'idraulico per aggiustare i rubinetti. Ed anche se hai le braccia un po' troppo lunghe, le mani prensili, palmate, il becco non fa niente. Diciamo la verità, non sei neanche troppo simpatica. Io ti amerei anche se fossi una mendicante, Ugo Arcibalda. Hai anche il nome che fa schifo. Per fortuna che almeno sei miliardaria. Grazie. Bella, bella. C'è stata un'altra proprio romantica così al volo. Se tu fossi, se tu fossi uno scaldabagno, io sarei il tuo termostato. Se tu fossi una lampada alogena, io sarei l'interruttore. Se tu fossi una sedia a rotelle, sarebbe meglio, perché così non avresti le gambe. Grazie. Non ti preoccupare. Dentro di voi. Chi è stata richiesta quella lì. Ma quella lì appare quella, Questa l'ho scritta in è l'ultima che dico adesso, perché è meglio non mi picchiate. L'ho scritta in un momento che non stavo in condizioni fisiche proprio adesso. Cioè, avevo fatto qualche cosa, vabbè, asparagi, non si sa che significa, però poi... Copriti che ho freddo, poi mangia che ho fame, ora bevo in quanto tu hai sete, corrono loro, così non sudano, parla più forte che ho sonno, tagliate le sedie del mio garage, vanno al mare per rimanere chiari di carnagione come noi africani dell'estremo nord Europa, dove fa caldo a gennaio, e gli asparagi. Grazie. Vedo che capite, allora vi leggo l'ultima che si intitola Pesci. E vai. Un giorno un pesce malato andò da un pesce dottore e gli disse che aveva un pesce tumore. Gli restavano pochi pesci giorni di pesce vita. Era il momento di fare tutte le pesce cose che non aveva fatto pesce prima. Subito pensò di andare con una pesce puttana. In tasca aveva molta pesce grana. Ritirò tutti i soldi dalla pesce banca. Cominciò anche a farsi le pesce pere, neanche il pesce AIDS poteva temere. Fece un biglietto di sola andata per il paese di Pescilandia. Lì tutto era a forma di pesce, case pesce, pesci alberi, pesci pesci. E così consumò i suoi ultimi pesci giorni di pesce vita. E solo in punto di morte si rese conto di essere una scimmia. Nobile scalzo, triste, quello che volete. Via le scarpe. È molto triste, fermate i fazzoletti che è tristissimo. Non lamentarti. Dio come sono stanco. Però se pensa quanto è stanco l'ascensore del Madison Square Garden, la mia non è stanchezza. Dio quanto sete. Però se pensa a quanta sete ha la sabbia del Sahara, la mia non è sete. Dio quanto lavoro. Però se pensa a quanta calce porta una cariola, il mio non è lavoro. Dio quanto sudo. Però se pensa a quanto suda l'orso bianco che è stato già di Los Angeles, il mio non è sudore. Dio quanto sonno. Però se pensa a quante notti fanno in bianco il gufo e la civetta, il mio non è sonno. Dio quanto mi annoio. Però se pensa alla vita che fa il pistone di un'automobile, la mia non è noia. Quindi non mi devo lamentare. Perché se pensa a quanto si lamenta la scarpa di un uomo che pesa 150 kg, il mio non è un lamento. L'ottica. Spesso guardo il mare e penso, chissà se esso ha gli occhi per guardare me, e se li avesse... Babbo Natale, vero poeta, è triste. Scusate, mi commuovo. Se oggi credessi a Babbo Natale, sarei più felice.

Da dove? Quale? Da quello di Garizzo. Ho visto la... Non affia le piante. Amiccioni! Non puoi, sapete voi, lo paghiamo. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, analisi del sangue. Luca, oggi ho fatto l'analisi del sangue e ho deciso che non la farò più. Mai più. Mai, mai più. Più, più, mai più. Più, più. Mai, mai. Mai, mai, più, più. Più, più, più. Mai, mai, mai, più. Più mai, più mai. Mai, mai, più. Più mai, più. Più mai, più. Mai, più. Mai, più. Mai, più. Mai, più. Mai! Più per te giornale, prego. Signori, un omaggio comunque a Paolo Fraiese, perché mi dispiace. Silenzio per Fraioli. Hanno ammazzato Fraioli, Fraioli è vivo. Ah, vivo Fraioli. Brava morto. No, infatti... Ancora campo, zitto, zitto. No, rispetta, no, no, no, no, no. Mi dissocio da tutto ciò. Allora... Questa poesia si intitola Lo scheletro. È una poesia un po' esatto. Lo scheletro. Concentrazione. Bravo! Arrivalla, arrivalla. Tutte le notti ho un incubo ricorrente. Infatti vedo uno scheletro che mi insegue. Dovunque sono me lo ritrovo dietro. L'altra notte, come al solito, spengo la luce, sbadiglio, chiudo gli occhi, ma ecco che piombo in un sonno pesante, umido, faticoso, senza fiato. Infatti stavo correndo e correvo per la città. E il teschio coperto di vermi e brandelli di carne decomposta che perdeva di qua e di là correva dietro di me. E io correvo dietro di lui. No, anzi, insomma, non mi ricordo bene se io inseguivo lui o lui inseguiva me. Urlavo. Urlava anche lui. Di corsa scendo le scale della metropolitana e lui sempre dietro, finché non entro nel vagone, anche lui. Mi si piazza proprio dietro le mie spalle. Scusate il... Così vicino da sentire il suo dolciastro alito cadaverico affluire vischiosamente nelle mie ormai rassegnate narici. La sua lingua squamosa e ossuta, intrisa di liquame caldo giallo-verde, con punte di grigio cosparse sporadicamente senza una regola ritmica ornamentale, mi slurpava il collo. Pensai con sorpresa e imbarazzo che quello non era uno scheletro, bensì una scheletra che voleva avere rapporti sessuali completi con me. La cosa mi provocò immediatamente uno stato di nausea. Mi giro di scatto e gli vomito addosso tutto il minestrone decomposto ingerito un mese fa, che in genere lo trattengo in casi analoghi a questo. Si apre la portiera, non Caterina la portiera del mio palazzo, bensì quella del metrò, perché per aprire la sora Caterina ci vorrebbe una motosega o un coltellaccio da macello. Ho perso il segno, scusa. Ricomincia? Ti va la tombo, eh? Da capo. Insomma, si apre la portiera. Esco fuori barcollando, ma una figura mi appare, ritta immobile di fronte a me. Era colui. Sì, lo scheletro sporco di vomito mi sputa. Allora, lo scheletro sporco di vomito mi sputa in un occhio e non ci vedo più. A tastoni prendo la prima mazza da baseball che mi capita addosso e gliela scarico addosso, serrando colpi qua e là finché quell'ammasso di merda non si scompone in un'infinità di pezzi di ossa e cartilagine. Per sbaglio colpisco anche la testa di un signore che passava di là. Ma mentre me ne tornavo vittorioso sul mio cammino, con lo spazzolone in mano, no? Cammino spazzolone, avete capito? Le ossa si ricomponevano. E tutto a un tratto dietro di me mi sento come una mano. Era? Chi era? Una mano. L'orrenda creatura mi appare di nuovo bloccandomi il passo dicendo: ehi tu, non avere paura, sono Franco, la sorella di tuo zio Fernanda. Stavo cercando due uova in camicia coi baffi in una ciotola di tequila con il loro sito internet web http e l'indirizzo di posta elettronica email chiocciolina compresa. Volevo chiederti solo se mi trovi buffo, se ti faccio ridere o se sei tutte chiacchiere e distintivo. Ma no, lascialo parlare, grandicello abbastanza, si sa difendere da solo. Insomma, buffo, buffo come? Ti faccio ridere, te diverto, ti sembra un pagliaccio, eh? Sì. Sto parlando con me, con te, ce l'hai con me, e tu, amico. Non c'è nessuno qua, fanculo. Un gremmine coca che ho ricordato. È lunga. Poi ho visto due polli abbracciati, una milza sul monopattino, mi sono pisciato addosso e sono caduto in trance. Sono rinvenuto poi tra 40 giorni e 89 notti a casa di Amanda Lear e Timo Di Liri, completamente vestito con sparso di biancheria intima femminile usata e una mistura a base di nafta e olio canforato, acidi urici, pesche sciroppate, miele e caffè Hag, davanti a un televisore acceso dove Bruno Lauzi bofonchiava a karaoke in una trasmissione via satellite per sordociechi paralito catatonici. E nei sottotitoli in russo c'era scritto che mi stavo per svegliare, infatti in quell'istante sono alla sveglia e cascai dal letto. Vabbè. Da dirvi. Esaustiva! Esaustiva! Che? Esaustiva, esaustiva. Estiva. Vabbè, ne ne racconto un altro oppure. Un'altra! Almeno ve racconto una. Vediamo quella che poi. Erino, quella lì. Normale! Quella lì è spirituale, quella zenistica. Vabbè, quelle lunghe, praticamente ne dico due, poi me ne vado a fare. Lunga, la vogliamo lunga. Vabbè, questa è una prosa, non è una poesia, perché l'altra lì. Allora, questa è sulla morte. Sulla morte e sulla rinascita. La morte e la rinascita. È un po' spirituale. Alla salute. D'altra parte lui sei un poeta, per cui. Un poeta. E un altro po' poeta. Allora, nella mia breve ma intensa vita. Morte e rinascita è il titolo. Allora è tutta. Nella mia breve ma intensa vita ho accumulato in lungo e in largo molte esperienze. A soli 88 anni consumavo il mio primo rapporto sessuale. Fu con una famosa troia maltese d'origine napoletana che raggiunsi il mio primo orgasmo. Poi con un'ex comunitaria e dopo seguirono ad intervalli regolari belghe, bulghe e giamaicane. Ero già andato in India, Irlanda del Nord, Normandia, America Latina, USA, Australia, Equatore, Nuvolari, Explorer Caffè, Extra, Patrofegna, Caffè, Latino, Frontiera, Fontaine, Catizar, Morte ai centri sociali. Possedevo una Jaguar Honda con multicolori, fumavo la pipa e il sigaro e le canne contemporaneamente. A 96 anni, nel mio pieno vigore fisico, vinsi alla lotteria di Capodanno e mi sposai con una pornostar. Facevamo un sacco di porcate, tanto che una notte ci trovarono morti in una stanza d'albergo. Fu solo in quel momento che cominciai a capire di essere morto. Dopo qualche giorno, in pieno delirio, tentavo di accendere la luce, ma in quel nuovo albergo dove mi avevano portato il servizio era scarso. La stanza era stretta e larga, e lunga, più larga, sbagliato. E ci entravo solamente io con il mio letto a forma di sarcofago. In compenso però era un posto tranquillo, lontano dai rumori quotidiani. Un silenzio di tomba. Non c'era l'aria condizionata, ma non era il caso di lamentarsi, tanto non respiravo. Quindi non potevo fumare, ma ogni tanto esternavo qualche fuoco fatuo. Mi annoiavo a morte, ma ogni tanto... Mi annoiavo a morte perché non c'era il televisore. Quel silenzio mi faceva cascare le palle, infatti dopo un po' si staccarono anche quelle, ma non per colpa della noia. La seguirono a brevi intervalli il naso, le orecchie, fino a quando non andai mio malgrado in decomposizione. Sembrava una polenta verde con pezzetti di lesso e gelatina viola. Mi facevo ribrezzo e sentii che era arrivato il momento di fare il fantasma. Mi concentrai e feci un po' di training autogeno e dopo 30 giorni ero fuori di me. Avevo un po' la testa fra le nuvole, infatti incontrai, all'epoca c'era Tullio Solenghi vestito di bianco che mi voleva offrire una tazza di caffè Lavazza, ma fui bloccato da una volante di Ghostbuster del purgatorio che mi portarono a scontare 30 anni di peccati originali perché li avevo commessi soltanto io. Durante la prigionia scrissi il famoso libro Lo Zen e la programmazione della lavatrice. Fui invitato a presentarlo al San Maurizio Costanzo Show. Divenni un eccellente cantautore e partecipai al 2000esimo Festival di Sant'Antonio. Arrivai 666esimo insieme a Totò Cotugno. Poi feci domanda per la conversione al buddismo e ottenni la promozione. Così mi sono reincarnato e adesso sono una sigaretta. Il mio nome è Laghi e il mio cognome è Strike. Vivo in una casa di carta stagnola e la mia famiglia è composta di 20 persone. Io sono il 18esimo. Sono laureato in filosofia e scienze esoteriche e sono un monaco buddista. Quindi il mio scopo è raggiungere il nirvana. Durante la mia esperienza trascendentale tra sale e tizio, non ci vedo più, ho scoperto le vie del Tao per espandere la mia coscienza all'infinito. Una è la via semplice, cioè accensione, aspirazione, filtro. L'altra, un po' più complessa, è l'unione con la marijuana, quale risultato è la comprensione totale dell'essere. Yin e Yang, in una cosmicità di altissimo livello psichico, quasi a svelare l'incanto divino, di cui solo il buon Dio poteva essere l'artefice. Vita lunga e prospera. O bevi, non gridare, non urlare, tesoro, sto bene, sai, ce la sto facendo. Sei fuori. Adesso è il caso di chiedere se volete un ultimo giro. È il caso di chiedere scusa. No, io mi dissocio da tutto ciò. Quelli che possono ancora camminare, raccontate. Se volete un ultimo giro rapido. Volete un ultimo giro rapido? Una per uno. Una per uno. Ma vai da noi, vai. Così. Vai io per uno. Allora, prima di leggerne una brevissima, ne leggo due brevissime. Questa qui, nonostante che io non sono Hermes è lui, molte volte sono stato accusato di essere fortemente ermetico, perché io sono molto autoreferenziale. Per cui vi dico che non provate a capire il senso di questa poesia, perché non lo capirete mai. Vedetelo come un mantra, io la vedo molto come proprio un'esortazione a, come dire, proprio a... Tutti uniti, dai! Yeah, e vai, dai. Peace and love. La poesia è dedicata a Glenda, l'amante del glande, e si chiama La testa del gatto. Mo, se state buoni, zio, vi vedete la testa del gatto. Zio, facci vedere la testa del gatto. Mo, se state buoni, zio, vi vedete la testa del gatto! Zio, facci vedere la testa del gatto! Oh! Se state buoni, zio, vi fa vedere la testa del gatto! Zio, facci vedere la testa del gatto! Oh! Passami il fronte! Domenico, no! Come si chiama, là? Sì. Ecco, adesso un'ultima. Non mi chiedete chi è il fronte! Non lo potete sapere, non lo dovete sapere. È il fronte, esiste. Sapete che è il fronte? Vabbè, non era di zio. Adesso l'ultima. l'ultima, che è molto gradita, mi dicono. La sesta generazione! Tu la salita, belli, no? Aspetta, fai entrare dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Prego, la sesta generazione! No, vedo che sei l'insopportazione. Maestro. Io amo l'amore, ma l'amore mi odia, per cui gli ho scritto delle poesie contro. Scogli. Ci sono tre scogli là nel mare della vita. Dal primo si tuffa il mio passato, con tutti i sogni infranti e le delusioni che ho vissuto. Dal secondo si tuffa il mio futuro, con i miei sogni in tasca e il mio destino oscuro. Dal terzo ti tuffi tu che sei il mio presente e ti sfracelli sulla roccia sottostante. Assimilazione. Ti mangerei per averti sempre in me. Poi ti digerisco, ti caco, tiro la catena e ti saluto core. Aspetta, questo è un vero circolare. Forza, forza, forza. A tutte l'orfi, a tutte l'orfi. Aborto spontaneo. Tu hai un corpo nato per l'amore, morto però di parto. Vita. Per un istante ho provato le pene dell'inferno. Poi ho guardato nei tuoi occhi e quell'istante è diventato eterno. L'ultima, perché vi sento un po' stanchini. La so a memoria, però devo far finta di leggerlo perché sennò non vale. Cara, mi manchi. Bella, applauso. La sanno a memoria. Cara, mi manchi quando mi lanci addosso il piatto ancor colmo di minestra. Cara, mi manchi quando il coltello appuntito sibila minaccioso accanto al mio orecchio sinistro. Cara, mi manchi quando impugni feroce la tua 38, per quanto tu prenda la mira, cara, per fortuna mi manchi. Ciao. Ma che orario gli avete dato a questo? La parolaccia li facciamo entrare a sora. Una d'amore. Silenzio. Ti voglio un vomito di bene, baby. Ti voglio un variegato, bavoso, caldo, filamentoso, verde striato, appiccicoso vomito di bene, baby. Caldo, caldo, denso, denso, colloso, colloso. Ti sto vomitando addosso tutto il mio vomito di bene, baby. Oh yeah, yeah, baby, baby. Oh yeah, baby, baby. E ora baciami, stronza. Questa è dedicata solo quando c'è il pubblico stronzo, non siete voi, però va, dico uguale. Ah, vai un'altra. No, non ce l'ho. La tengo sempre come finale, se no il pubblico è stronzo. Ma qui, siccome è un circo culturale, siete tutti esteti. Fate finta di essere stronzi, dai. Fate finta di essere stronzi. No, no, no, no, no, no, no. Ok, ok, grazie. Mi fa caricare, mi ha detto basta. Sarà proprio stronzo. Intervallo. Siamo una cifra stronza. Ma è stronzi e penso a caricare. Più la sedia la don faccia. Mo basta, no, quando scherza, scherza. Mangiare. Avete mai mangiato la vostra merda? Sì, la vostra merda. Scoprireste il vostro io, il vostro ego, il vostro vero essere. Quello che in realtà voi siete veramente. Dei grandissimi stronzi. Bravo, bravo. Questo è dedicato a tutti voi, perché io amo tutti normalmente. Amore! Indistintamente, uomini e donne, soprattutto le donne. Conoscerti! Ecco. Grazie, che mi andate. Sono andato un bambino. Fermatene, via dal bicchiere. Arrestate quei due. Questo tanto già avete colpito. Conoscerti, Voi siete quelli che strizzate il tubetto del dentifricio fino a quando non esce più nulla. No. Voi siete quelli che vi soffiate il naso e poi guardate dentro al fazzoletto. Sì. Voi siete quelli che andate al mare il lunedì per rimorchiare parrucchiere. Voi siete quelli che fate le puzze dentro al letto e poi mettete la testa sotto. Sì. Voi siete molto simili a me, solo che io sono più bello. L'hai detto, amico. La Kimball. Allora, una... L'uomo copertina. Dedicata a mia madre, perché no. È colpa tua se io so così. Ci ha messo tutta. Cover boy. Intitola, ma chi l'ha detto che di mamma ce n'è una sola? Nel mondo ce ne saranno almeno 5 miliardi e mezzo. Mia mamma da bambino mi portava a giocare in quel giardino. Ora non ci si può più andare, perché ci si vanno a iniettare. Ora non andiamo più lì all'alba, anche perché ho 36 anni, 18 per gamba. La mia mamma ha sempre ragione, se discuto mi butta dal balcone. Quando la porto in macchina dice vai piano, allora io vado a 120 contro mano. Mia mami è buona, bella e intelligente, sono io ad essere cattivo, brutto e un po' demente. Ma guai a chi me la tocca, gli strappo le palle e gli le metto in bocca. Grazie. Ora... L'ultima è la sua memoria, perché l'ho scritta qualche giorno fa, è una poesia proprio dettata dal cuore, quindi è una poesia non scritta con la testa ma col cuore, è un'accorata proprio, si intitola Grazie. Grazie, quindi va un po' urlata un po'. Di... Grazie, grazie, comunque vada grazie, Gabriel Omar Battistuta! Il 100%! Demagogia a un solo muro! Dai, andiamo! Andrea! No, ho capito bene così! Silenzio, il momento triste! Oh. Il momento triste! Fazzoletti alla mano! Mani sulle palle! Occhio a portafoglio! Ma le ultime che porta anche un po' male! Silenzio! Monoscopica e microscopica della vita! Appena nato non avevo nessuna età! Dopo 2 anni ne avevo 2. Aspettai un lustro e arrivai ai 7. Un'importante età ai 7. Mi ricordo il mio primo ghiacciolo e il mio primo bidet incontrollato. Pulizia dei genitali senza l'intervento di terze persone. Dopo 7 anni arrivai ai 15. Fu l'era della mia prima candela sostituita al mio LEM. Motorino del poeta posseduto e poi sottratto illecitamente. Ed il mio primo bagno senza ciambella. Dopo 10 anni arrivai ai 25, anni oscuri che determinarono tutto l'andamento di quell'età, e cioè cambiarono l'itinerario del 907. Autobus ATAC che passa nel quartiere del poeta, prolungandolo fino alla storta. località tra la Cassia e la Giustiniana, strade consolari. Oggi ne ho e sono molto contento. Guarda, ne hai? Detto prima. No, 38 e sono molto contento. Bravo. Dai. Oh, voglio un applauso globale del ginocchio. Aie! Certo che la stassia. Comunque vorrei avere i tuoi capelli, porca voglia. Ma ce l'hai, che sei io? Sono i capelli invisibili. Allora, visto che avete capito che insomma non stiamo tanto bene noi poeti discussisti, abbiamo dei problemi, quindi diciamo finiamo con questa cosa che si intitola depressione. Sì. Oggi anche il cioccolato è amaro nella mia bocca, forse è cioccolato amaro. Maiali! Lo so, magari mi rompo le palle, però lo dico così. Allora. Questa è una poesia autocensurata. Questa è una poesia autocensurata. Io saprò essere il tuo maglione per sentire la tua pelle. Io saprò essere la tua gonna per sentire le tue cosce. Io saprò essere le tue calze per sentire le tue gambe. Io saprò essere le tue scarpe per sentire i tuoi piedi. Io saprò essere le tue mutande per sentire bip, la tua bip, che sì, bip. Io saprò essere la tua bip, che bip, la bip, dentro bip. Io bip, la bip, con bip, bip, bip, bip, e poi bip, bip, bip, bip, con la panna. Bip, bip, bip, si allarga, bip, bip, bip, bip, bip, brr, bip, bip, bip, bip. Bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip. No, non c'è più. Ok, un'altra. Così proprio mi mandate proprio. E via Traioli! Non è morto! No, pensa che era morto! No, è stato pagato! Dentro di noi basta, no, bravo, bravo, bravo. Io non devo esibirmi, volevo soltanto dirvi che tutti qui presenti poeti li potete vedere domenica sera in concerto, perché i poeti qui sono, fanno parte del gruppo I Sentinels. Andrea Evangelisti aprirà il nostro concerto domenica sera al Cetus Pub a Via dei Volsci 126B. In più, ed è il motivo principale per cui sottolineo questa cosa, è che domenica il concerto, oltre che da Andrea Evangelisti, verrà aperto dai Mac Rakers, che sono nient'altri che il gruppo del figlio dei Sentinel. Signore e signori, avremo due generazioni a confronto. I Sentinel e il figlio dei Sentinel. Ha detto tutto. Domenica c'è il Pub, i Sentinel, Andrea Evangelisti, Mac Rakers, abbia le voci. Arrivederci. Applauso. Continuate così.